differente, che si autodistrugga nell'esaltazione, che si esalta nell'autodistruzione, sempre più incolanti fra l'assenso che si aspettano dalla comunità e il disprezzo che le riservano, in perenne attesa della recensione